GR24, il sole 24 ore. Formigoni, non ho fatto errori. Il presidente Lombardo a confronto con Alfano e Maroni sul futuro della giunta. Legge elettorale, si parte dal testo PDL, ci sono le preferenze. A Padova un bambino portato via a forza dalla polizia davanti ad una scuola, il giudice l'aveva affidato al padre. Disperati mai diventa un film, 5 cortometraggi sulle storie di imprenditori schiacciati dalla crisi che hanno raccontato a Radio 24. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. In apertura dunque i destini della giunta della Regione Lombardia che si stanno discutendo in questi minuti nella sede del PDL. In diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Il vertice a tre Alfano, Maroni, Formigoni è durato meno di un'ora. Il governatore della Lombardia ha già lasciato infatti la sede del Popolo della Libertà di Via dell'Umiltà, confermando la sua intenzione di dare presto un segnale di discontinuità, poiché al momento l'ipotesi di dimissioni sembra la meno probabile, resta quella di un azzeramento di tutta la giunta, scelta questa che andrebbe bene anche alla Lega. Ne starebbero parlando in questi minuti Alfano e Maroni. Alle 15.30 poi il faccia a faccia tre dovrebbe riprendere con il ritorno di Formigoni. Quest'ultimo comunque sembra avere le idee molto chiare, sentiamo le sue parole all'arrivo al vertice. Quello che è capitato è molto grave, io farò gesti molto netti, molto forti di discontinuità. Si tratta di capire se li faremo con la Lega o senza la Lega. Ma si dimetterà? Vado a parlarne. La questione è politica, il ragionamento di Formigoni, qualora la Lega, ha spiegato il governatore, volesse fare un passo indietro in Lombardia, verrebbero meno le alleanze anche in Piemonte e Veneto. Quanto al personaggio da cui è nata l'ultima crisi in regione, l'assessore Zambetti, Formigoni ha ricordato di aver chiesto nei mesi scorsi a tutta la sua giunta di giurare sulla propria onestà. Così ha fatto anche Zambetti, prendo atto che spergiura, ha detto Formigoni, e ha tradito la fiducia mia e degli alleati. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Intanto un aggiornamento che arriva dai Nobel. È arrivato il Nobel per la letteratura, è andato al cinese Mo Yan. Ci colleghiamo per un commento su questo e per sapere di chi si tratta con Stefano Salis del Sole 24 Ore, che tra l'altro si trova al Salone del Libro di Francoforte. Stefano, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Mo Yan, il nuovo premio per la letteratura cinese, è stato accolto da un applauso anche qui in sala stampa a Francoforte. È uno degli scrittori che si pensava potesse vincere, effettivamente era in corsa da anni, e la una motivazione che è stata data dal brevissimo annuncio è chiaramente parla di una capacità di fondere l'epica e il folklore con la contemporaneità. Mo Yan è uno scrittore che ha avuto diverse traversie, ovviamente è uno scrittore che merita il Nobel, è tradotto in Italia e ne sentiremo ovviamente parlare molto di più adesso che ha avuto questo onore. E grazie Stefano Salis, poi torneremo naturalmente a commentare questa decisione dell'appunto Nobel. Eravamo sulle vicende della giunta lombarda. Ieri durante la conferenza stampa per l'arresto di Zambetti il Dabbo Cassini ha rivolto pesanti accuse anche agli imprenditori, anche questa volta come in molti altri casi. Ha detto il procuratore aggiunto di Milano, a nessuno dei 60 che hanno subito intimidazioni e aggressioni da parte dell''ndrangheta ha parlato. Di questo parleremo fra poco alle 13.30 in Italia in controluce. Sentiremo tra l'altro un'intervista che abbiamo realizzato poco fa con Roberto Saviano e sentiremo anche il commento del presidente di Assolombarda, Alberto Meo Martini, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Eccone un assaggio. È da un po' di tempo che dottoressa Boccassini segnala questo problema. Io non sono tra quelli che si sente, come dire, offeso da questa affermazione, perché il tema è vero, esiste, ne va preso coscienza, cioè non ci sono sufficienti anticorpi anche nella classe degli imprenditori. Nessuno degli imprenditori vittime di intimidazioni, di ricatti, eccetera, ha detto Ilda Boccassini, ha denunciato. Perché? C'è paura? Assolombarda è stata la prima associazione di imprenditori del nord a modificare il proprio statuto e a fare della lotta alla criminalità organizzata come dire, un sine qua non per essere associati ad Asso Lombarda. Noi non abbiamo avuto in Asso Lombarda casi ancora di atteggiamenti omissivi. Gli atteggiamenti omissivi in tema di criminalità organizzata sono molto gravi, perché sono la strada più nascosta attraverso cui penetra la criminalità organizzata. E quindi il fatto che alcuni imprenditori, fortunatamente non tutti, non abbiano neppure denunciato, dimostra più che una paura, una convenienza, e questo è ancora peggio. Come avete sentito poco fa, intanto Roberto Formigoni dice: se salta la mia giunta, devono saltare anche le giunte leghiste di Piemonte e Veneto. Ebbene, proprio pochi istanti fa la nostra Alessandra Schepisi ha intervistato il presidente del Veneto, Luca Zaia. Ascoltiamo. Io mi sono sempre guardato bene a far commenti rispetto ad amministrazioni che non sono la mia, mi occupo solo della mia amministrazione. Certo è che queste sono vicende che riguardano i lombardi ed è bene che se le risolvano i lombardi. In realtà sono vicende che riguarderebbero anche altre regioni, perché il PDL dice se cade Formigoni cadono anche Piemonte e Veneto, perché c'è stato un accordo alle regionali del 2010. Ma che di cose se ne possono dire tante. La realtà è una sola, che io rispondo solo ai cittadini. E che se in Veneto si va a casa lo decido io, perché in quel contesto significherà che non si è rispettato il programma elettorale, non sicuramente per scelte delle segreterie. Però un giudizio come governatore lo può dare su quello che sta accadendo in Regione Lombardia? Beh, vede, nel totale rispetto delle vicende che io non conosco e quindi le leggo anch'io dei giornali, dico che comunque una chiarezza di fondo va fatta con delle scelte amministrative forti. Poi sarà il presidente a decidere quali saranno assieme alla sua maggioranza. Un azzeramento della giunta però sarebbe auspicabile. Come le ripeto, non voglio parlare delle amministrazioni altrui. Facciano e diano segnali ai cittadini. Se i segnali saranno buoni e forti, sapranno apprezzare. Così Luca Zaia. Noi passiamo a parlare dell'economia, iniziando dai mercati, condizionati in parte dall'asta dei titoli di Stato italiani e dal taglio del rating della Spagna. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Le borse europee naturalmente si erano svegliate di cattivo umore stamattina, penalizzate proprio dal nuovo taglio di rating operato sulla Spagna da parte di Standard & Poor's, due livelli tagliati di netto da BBB più a BBB meno, uno scalino sopra la valutazione junk, cioè la spazzatura, e oltretutto l'outlook rimane negativo. In avvio la borsa spagnola perdeva oltre un punto e andavano dietro tutte le altre piazze, particolarmente Milano, che aveva aperto in calo di circa lo 0,6%, più sulla parità gli altri listini. Poi a metà mattinata anche l'esito dell'asta dei titoli di Stato italiani ha contribuito invece a rendere un po' più vivace il clima e a renderlo soprattutto positivo. Adesso le piazze sono tutte con il segno più, ancora con l'eccezione della Spagna, che comunque ha drasticamente ridotto la sua perdita, adesso è a meno 0,39%, mentre Parigi è positiva per lo 0,64, Francoforte più 0,7, Londra più 0,6, Milano più 0,21%. Com'è andata l'asta? Il Tesoro ha venduto tutti i 3.750 milioni di euro che offriva delle BTP triennale scadenza luglio 2015, con un rendimento medio che però è salito al 2,86% dal 2,75% di un mese fa. È andata bene anche l'asta del BTP residuo con una scadenza appunto prossima ai 3 anni, anche in questo caso appunto 3.750 milioni offerti, in questo caso appunto l'asta anche per questo tipo di titoli è andata bene. In ogni caso appunto segnaliamo questo nuovo aumento dei rendimenti, che praticamente replica il copione che si è scritto ieri per i bot a 3 mesi e a 1 anno. Lo spread fra BTP e Bund è a 360 punti base, aveva aperto peggio a 372, quindi abbiamo avuto un calo anche sul differenziale fra Italia e Germania. Per il momento è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Intanto la disoccupazione in Grecia ha superato in luglio il 25%, è quello che ha annunciato l'ente greco di statistica, evidenziando un dato pari al 25,1 contro il 17,8 del luglio di un anno prima e del 24% di giugno 2012. Anche naturalmente di questi temi si sta discutendo a Tokyo, dove si è riunito il G7. Ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, buongiorno, anzi buonasera per te. Che cosa è emerso? Sì, il G7 si è riunito, è stata una riunione un po' sottotono, perché poi i ministri si troveranno a livello di G20 di nuovo fra un paio di settimane in Messico, quindi non c'è stato nessun comunicato finale, niente conferenze stampa. Si sa che i giapponesi hanno sollevato il problema dello yen troppo forte, che frena un'economia già piuttosto asfittica. Piuttosto interessante, avete citato la Grecia, quello che ha detto il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde poco prima, dicendo che per la Grecia ci vogliono 2 anni in più per fare il piano di aggiustamento, perché fare l'austerità tutte subito è controproducente non solo per la crescita ma alla fin fine anche per i conti, e questo spazio andrebbe dato anche alla Spagna. Quindi il Fondo Monetario ha ripetuto quello che sta dicendo in questi giorni: l'Europa forse sta eccedendo in austerità, se si vuole veramente vincere la battaglia del debito bisogna anche un po' avere un po' di crescita, che in questo momento evidentemente non c'è. Grazie Alessandro Merli. Noi veniamo all'economia italiana adesso con la doppia mossa dell'esecutivo, il taglio dell'IRPEF sugli scaglioni più bassi e l'aumento dell'IVA, che è stato duramente criticato dalle associazioni dei consumatori così come dagli esercenti preoccupati delle ricadute sugli acquisti. Al microfono di Valeria De Rosa, Luigi Campiglio, ordinario di politica economica all'Università Cattolica di Milano, spiega come l'aumento dell'IVA si tradurrà in maggiore inflazione e come sarà più pesante proprio per i beni di largo consumo. La prima considerazione da fare è che un elemento trascurato è che le famiglie con livelli di consumo più basso nel corso degli ultimi 10 anni hanno registrato un aumento dei prezzi, la loro inflazione, per così dire, è stata più alta delle famiglie in media. Questo per il semplice motivo che la composizione, diciamo, della struttura dei consumi delle famiglie con consumi più bassi è orientata verso beni alimentari, affitti, trasporti, che sono categorie di spese fra le più colpite. La morale è che l'inflazione di chi ha basso reddito è stata più alta dell'inflazione di chi ha alto reddito. Gli scaglioni più bassi dell'IRPEF andavano compensati a prescindere, mi passa il termine, perché questo effetto strutturale che le dicevo è in opera oramai da 10 anni. Se c'è qualcosa da evitare è un aumento dell'inflazione, ma l'IVA questa inflazione invece tenderà a aumentare, e siccome riguarda il carrello della spesa, per capirsi, l'impatto è immediato, mentre i consumi più alti non è che sono privilegiati, ma semplicemente il pattern di consumi del quintile più alto è fatto di beni durevoli in maggior misura, su cui maggiormente opera un effetto frenante degli aumenti della produttività, tipo televisori, cosa costano oggi, cosa costavano molto di più 10 anni fa. Il risparmio sull'illuminazione pubblica, invece, i comuni italiani spendono ogni anno oltre 1 miliardo di euro, ma circa la metà di questa cifra potrebbe essere risparmiata adottando specifiche cautele o dotando i lampioni di tecnologia LED, ovvero di lampade a basso consumo. A fare i calcoli è l'associazione Cielo Buio, i cui consigli hanno ispirato il lavoro portato avanti in questi mesi dal commissario alla Spending Review Enrico Bondi. Secondo studi europei citati da Cielo Buio, il consumo pro capite per l'illuminazione pubblica in Italia oltre il doppio della Germania e della media europea, 105 kWh contro i 42 tedeschi e i 51 europei. Anna Marino ha chiesto riscontro a Dario Di Santo, che è direttore di FIRE, la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia. È sicuramente una soluzione valida, è un qualcosa che è sempre stato promosso da chi opera nel settore. Per quanto riguarda il risparmio potenziale, noi partiamo da una bolletta che si aggira nell'ordine leggermente superiore al 1 miliardo di euro l'anno. I risparmi tipici che si riescono a ottenere nell'illuminazione pubblica variano fra il 30 e il 50%. Normalmente è chiaro che uno potrebbe pensare di riuscire ad arrivare a una cifra che varia fra i 300 milioni di euro e i 500 milioni di euro negli anni. Questo mettendo insieme sia sostituzione tecnologica sia quello che può essere un utilizzo più razionale degli impianti di illuminazione. Quali sono gli enti che potrebbero risparmiare grazie a questa misura? Tutti gli enti locali. Quindi vale ovviamente per tutti i comuni, perché sono chiaramente depositario di buona parte dell'illuminazione stradale, ma vale anche per le province e in parte su percentuali minori anche per i gestori di autostrade e quant'altro. In quel caso c'è anche l'illuminazione da gallerie, ma anche lì si è già intervenuto abbastanza e si continua a intervenire perché i consumi sono molto rilevanti. Qualcuno parla anche di un problema sicurezza derivante dalla minore illuminazione, così? Certo, infatti non per niente tutto va collegato con i piani di sicurezza del traffico, perché quando io vado o a alternare ad esempio i pali illuminati nel corso della notte o ad affievolire la sorgente luminosa a secondo delle soluzioni tecnologiche adottate, è fondamentale che comunque sia mantenuta un livello di efficientamento adeguato, e ovviamente questo può variare a seconda dell'importanza o della pericolosità del tratto stradale che viene considerato. E in apertura parliamo del video diffuso ieri da Chi l'ha visto e che riguarda un bambino di Padova. Abbiamo evidentemente dei problemi con il servizio. Lasciatelo stare! Non si mettono le mani addosso ai bambini! La scena viene davanti ad una scuola del Padovano. Quando la polizia interviene per prelevare un bambino di 10 anni e accompagnarli in una comunità, si trova a fronteggiare l'opposizione di alcuni familiari della madre. Le forze dell'ordine stavano eseguendo un provvedimento di affidamento in via esclusiva al padre, emesso dalla sezione minori della Corte d'Appello di Venezia. In passato il padre e gli assistenti sociali presso la casa materna dei nonni avevano più volte cercato di convincere il bambino, ma i tentativi erano risultati vani. La Corte d'Appello ha così individuato nella scuola frequentata dal minore il luogo idoneo per far intervenire gli agenti. L'operazione, che è avvenuta contro la volontà del bambino e sotto le grida dei familiari, è stata ripresa da un telefonino. Il video è andato in onda durante Chi l'ha visto e le polemiche sulle modalità di intervento della polizia non tarderanno. Giuseppe Borello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo alla politica adesso, iniziando dalla legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha adottato come testo base per la riforma la proposta del PDL a firma Lucio Malan, con il no di Italia dei Valori e del Partito Democratico. Il testo contiene le preferenze, un premio del 12,5% alla coalizione. Ma torniamo sullo scontro tra Sergio Marchionne e Matteo Renzi. A questo è dedicato il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Sarà anche per l'improvvida e offensiva frase di Marchionne su Firenze, ma è un fatto che Renzi ha trovato il modo di mantenersi al centro della scena anche dopo l'estenuante dibattito sul regolamento delle primarie. Criticando l'amministratore delegato della Fiat per le sue scelte o non scelte, il sindaco di Firenze ha chiuso la bocca ai suoi critici da sinistra, a coloro che lo accusano più o meno velatamente di essere al servizio di non meglio identificati poteri forti. Saper stare sulla scena e ottenere i titoli dei giornali è, come si sa, il primo ingrediente del successo nella odierna politica mediatica. Renzi ci riesce e sa polemizzare. Ha bisogno di farlo perché dopo l'Assemblea di Roma il tempo non lavora più per lui. L'effetto sorpresa è svanito, l'effetto iniziale, e la macchina del partito comincia a girare a pieno regime per Bersani, il quale resta il favorito delle primarie. Ma il sindaco dimostra anche, con l'episodio Marchionne, di non tirarsi indietro. Se non vincerà, sarà almeno in prima linea nel rinnovamento del centrosinistra. Un rinnovamento che non potrà non avvenire e in tempi che ci auguriamo molto brevi. Nel cinquantennale dell'apertura del Concilio Vaticano II, il Papa oggi inaugurerà l'anno della fede. Il teologo Bruno Forte, al microfono di Katia Caramelli, percorre gli aspetti più significativi del Concilio. Credo che il primo aspetto in cui il Concilio è stato ampiamente recepito è stata la riscoperta della centralità della parola di Dio nella vita e nell'esperienza spirituale dei cristiani. Un secondo punto importante è certamente la liturgia e dunque la ricchezza di grazia celebrata e accolta nei sacramenti. Il Vaticano II ha per tanti aspetti restituito alla Chiesa una liturgia anche alleggerita da elementi che si erano aggiunti nel tempo e nello stesso tempo ha reso partecipata l'Assemblea nella maniera più ampia e consapevole. Questo non sempre, non da tutte le parti, è stato realizzato in pienezza. Qualche volta si è notata anche una certa forse trascuranza, sciatteria nel vivere bene la riforma liturgica, però certamente in sé la riforma liturgica è un grande dono che il Concilio ha dato alla Chiesa e che in gran parte è stato recepito. Un terzo elemento è il dialogo ecumenico, che ha avuto dal Concilio un grande impulso, anche se vive oggi una fase forse inevitabile anche di riflessione, di stanchezza o problematicità, forse perché qualcuno ingenuamente si aspettava risultati molto rapidi in tempi brevi, invece è un cammino ancora molto molto lungo. La crisi morde e fa male. Le lettere di Disperati Mai diventano un film. Radio 24 aveva chiesto a partire dall'aprile scorso a piccoli e medi imprenditori di raccontare le loro difficoltà e i loro sentimenti davanti alla crisi. Centinaia e centinaia di lettere che parlano di sconfitte, di cadute, di vittorie, di persone che sono riuscite a rialzare la testa. Grazie alla collaborazione con il Festival delle Lettere di Milano e il London Short Film Festival, 5 di queste lettere sono diventate cortometraggi che saranno presentati in anteprima giovedì 11 ottobre, cioè oggi alle 18.30 all'auditorium del gruppo Sole 24 Ore in via Monterosa 91 a Milano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In chiusura, proprio prima di chiudere, una notizia appena battuta dalle agenzie: no ai tagli previsti dal decreto legge per i dipendenti pubblici con stipendi superiori a 90.000 euro lordi e 150.000 euro. Questo è quello che ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza depositata oggi. Maggiori aggiornamenti nel GR delle 14. È tutto per questa edizione di GR 24, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio, appunto, alle 14. GR Spettacoli. Buongiorno da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Al via stasera su Sky 1 l'ultima e decisiva fase di selezioni per X Factor, prima dell'atteso live show che dal 18 ottobre per 8 settimane andrà in onda dal Teatro della Luna di Milano. La puntata dedicata agli home visit promuoverà infatti 12 talenti che gareggeranno, scelti tra i 60.000 che si sono iscritti ai casting. I candidati rimasti in gara ora sono 24, ma i posti disponibili sono solo la metà. Tre monologhi di Ascanio Celestini al Teatro Vittoria di Roma per 3 settimane consecutive fino al 28 ottobre. Il primo, Pro Patria, sta per uscire anche come libro in edizione Einaudi. Sentiamo Ascanio Celestini al microfono di Elisabetta Fiorito. Pro Patria, il primo dei 3 spettacoli, racconta di un detenuto che sta in carcere e sta scrivendo un discorso che sarà importante per raccontare cosa ha fatto, da dove viene, perché l'ha fatto. E questo discorso lo fa pensando ad un interlocutore, un sostenitore, diciamo, un aiuto per la scrittura, per le prove di questo discorso, e questo interlocutore è Mazzini. Mazzini c'è e non c'è, in realtà non sta forse veramente lì, perché il detenuto che sta lavorando al suo discorso è un detenuto che sta in carcere adesso. Perciò è uno spettacolo sul carcere, sulle condizioni infami detenuti, dei carcerati nelle nostre prigioni, ma soprattutto c'è un collegamento tra il sistema carcerario e la tortura carceraria e invece il sistema della giustizia. All'Unipol Arena di Bologna questa sera concerto di Jennifer Lopez, unica data italiana del suo Dance Game World Tour 2012. L'attrice, cantante e produttrice eseguirà tutti i successi della sua lunga carriera, che comprende 7 album. Dal suo debutto nel 99 la Lopez ha venduto più di 55 milioni di dischi in tutto il mondo e ha recitato in vari film che hanno raggiunto il numero 1 al box office, tra cui Quel mostro di suocera e Prima o poi mi sposo. Anteprima radiofonica mondiale per il nuovo singolo dei Rolling Stones. Si intitola Doom and Gloom ed è da oggi scaricabile su iTunes. È frutto del ritorno in studio dopo 7 anni di Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Hood. Doom and Gloom è stato registrato a Parigi. Oggi, per la 13ª giornata mondiale della vista, CBM Italia Onlus organizza varie iniziative a Milano per la lotta alla cecità. Con un SMS al 45502 fino al 28 ottobre si possono donare 2 euro per aiutare i bambini non vedenti di tutto il mondo. E per l'occasione al Teatro Dal Verme, serata musicale con il Blind Date, concerto al buio del celebre pianista Cesare Picco. Il Blinded Concert in the Dark sfrutta il buio assoluto, non è la mancanza di luce sul palco, vuole dire ricreare e mettere in sicurezza un intero teatro nel buio assoluto. È un'esperienza veramente da fare, finché non si è davanti al buio assoluto non ci si rende conto. E io suono il pianoforte nel buio proprio perché vorrei non avere bisogno di vedere le mie mani, perché forse sanno dove andare e quindi intendo usare la musica come veicolo per andare altrove. Io sono forse un semplice autista che serve per andare a scovare dei paesaggi all'interno di noi. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli, un saluto da Adriana Fracchia.